9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 4 di gennaio, questa settimana che per quanto fitta di giorni lavorativi vedo che in buona parte d'Italia vede ancora insomma poco traffico, certo le scuole sono chiuse, però insomma gli italiani seri stanno al lavoro. Ieri mi ha molto colpito che, dovendo fare un'intervista per un quotidiano romano a un ex presidente di Confindustria, l'ho trovato in stabilimento il primo giorno all'inizio dell'anno e ho detto: "Toh, di solito quelli come lei o stanno al mare, stanno ai monti, stanno in vacanza." Dice: "No, noi veramente abbiamo una vecchia tradizione in famiglia che il primo giorno dopo la festività dell'anno siamo sempre in giro per gli stabilimenti insieme ai dipendenti." E mi ha molto colpito, come mi hanno colpito nei mesi scorsi, una serie di sms, messaggi. Io sapete che mi sforzo di rispondere abbastanza a ciascuno di voi, parecchie centinaia della verità, che si fanno vivi ogni giorno dopo il programma, chi per criticare, chi per proporre, chi per dire non sono d'accordo. E con alcuni di loro oggi abbiamo messo insieme questa trasmissione, perché abbiamo deciso che personalmente sono un pochino stanco dopo mesi e mesi di dover parlare sempre di Marchionne Sergio, Sergio Marchionne, Marchionne Sergio, Sergio Marchionne. Sicuramente siamo a una grande svolta per il gruppo Fiat nelle relazioni industriali, negli assetti contrattuali, l'idea dei contratti aziendali che contano di più in grandi paesi avanzati e da noi contavano molto poco per il feticcio del contratto nazionale. È sicuramente un grande passo in avanti. Confindustria aveva aperto a questa prospettiva con l'accordo interconfederale dell'inizio del 2009, con le deroghe al contratto dei metalmeccanici che la FIOM non aveva firmato, come del resto non aveva firmato i tre precedenti, e così via. Però detto questo, è un errore parlare sempre solo di Marchionne Sergio, Sergio Marchionne, perché si scopre che poi non è che si scopre, si tocca con mano, perché noi lo sappiamo, a dire la verità. Molti di voi ne dubitano e ne diffidano, però in realtà l'Italia è piena di centinaia e centinaia di migliaia, diciamo di Sergio Marchionne senza volerli avvicinare, ma insomma di gente, ed è di questo che ci occupiamo oggi, che con spirito costruttivo, con ottimismo, con uno spirito positivo malgrado i mille ostacoli, le mille esternalità negative del paese, le alte tasse, i vincoli amministrativi, un ambiente giuridico ostile all'impresa o alla collaborazione d'impresa, perché fatto dei mille pregiudizi, di una magistratura devastantemente attivista, eccetera, eccetera, malgrado tutto questo, ogni giorno sono in realtà la forza, il sistema nervoso, le fibre muscolari di questo calabrone un po' informe e sgraziato, che però è l'Italia che continua a reggere in qualche modo, non troppo, non troppo bene, non ci soddisfa, ma sui mercati internazionali. E allora, con tre di loro, con i quali abbiamo realizzato uno scambio di mail nelle settimane alle nostre spalle, abbiamo deciso di fare questa puntata aprendola alle vostre orecchie e chiedendo anche a voi di intervenire, se siete d'accordo con il fatto che l'Italia sia piena di tante centinaia di migliaia di persone che si sono impegnate scommettendo su se stessi, scommettendo sui propri collaboratori, oppure scommettendo sulla propria impresa, perché c'è anche un sindacalista tra noi stamattina, in uno spirito che è quello di saper vedere lontano, di fare una scommessa su il futuro, le gambe del nostro paese, non per illudersi sui mille ostacoli che non ci sono, ma per tentare di tutti insieme dare una risposta alla loro problematicità che non dipenda solo dall'alto. Ecco, questa è una trasmissione, tutte le volte l'ho detto, la rivoluzione si fa dal basso, che dimostra come sia dal basso che questo paese ha una sua enorme, in inglese si direbbe con enorme e con orrendo neologismo italiano, resilienza. Molti oggi dicono così: cos'è la resilienza? È più della resistenza, che in Italia fa appello alle armi contro il fascismo. La resilienza è questa, è la capacità di avere virtù concrete, civile o organizzative, avere un proprio modello organizzativo che è capace di assorbire e superare le esternalità negative del modello organizzativo, quindi del sistema paese in cui ci si sta dentro, proprio malgrado e migliorandolo col tempo. E allora vediamo chi sono gli ospiti di questo spirito. Io vi invito poi naturalmente a telefonare per dire: ci credete che siamo a centinaia di migliaia, se non a milioni, con questo spirito? Cosa pensate, se siete parte secondo voi idealmente di quel gruppo, oppure cosa pensate se non sopportate quel gruppo e pensate che invece la risposta debba essere collettiva e non individuale? Intanto iniziamo a presentare i nostri ospiti. Abbiamo io qua in studio Matteo Morandi. Buongiorno, buongiorno, dottor Giannino. Imprenditore. E ho collegato telefonicamente Claudio Donini, che è direttore industriale di un primario gruppo internazionale. Buongiorno Donini. Buongiorno, buongiorno a lei. E Roberto Serra, che l'avevo detto, è un rappresentante di una RSU per la CISL e di mestiere fa l'operaio metalmeccanico. Buongiorno Serra. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti gli spettatori. Allora Serra, io comincerei da lei perché proprio a seguito di una puntata, una delle tante che abbiamo fatto interrogandoci sul caso Fiat, la cooperazione, l'antagonismo nelle fabbriche, nel settore manifatturiero, nella scommessa che ci sia un manifatturiero in un paese che per tanti anni ha pensato ne abbiamo mantenuto troppo, perché nei paesi avanzati si fa molto più servizi, per tanti anni abbiamo pensato che fare troppa manifattura era un difetto, per così dire, era un segno della arretratezza italiana. Poi nella grande crisi abbiamo scoperto invece che grazie alla manifattura, a tante centinaia di migliaia di piccole imprese, grazie soprattutto alle 14.800 imprese italiane che hanno due insediamenti propri all'estero, per le cui lavorano 180.000 imprese italiane nelle filiere, insomma queste 190-200.000 imprese italiane con loro 2.000.000-2.200.000 occupate sono quelle che hanno fatto quello che tutti hanno riconosciuto essere un miracolo, cioè nei 22-24 mesi più pesanti della crisi hanno migliorato addirittura in termini di valore l'export manifatturiero italiano sul commercio mondiale. E a proposito di una di tante di queste puntate sulle virtù di questo modello e su come per rappresentare dei dipendenti nelle imprese manifatturiere italiane si debba avere uno spirito più cooperativo o meno cooperativo, puntando i piedi perché si fa rappresentanza, ma anche vedendo qual è la sfida della produttività per consentire alla manifattura italiana di stare sui mercati, venne una lettera di Roberto che ci disse: ma insomma, piantatela di fare tanta ideologia, eccetera, eccetera, guardate che ci sono tanti di noi che hanno ben chiare le cose e si battono ogni giorno appunto per fare passi avanti insieme. Roberto, ci vuole un po' raccontare lei che fa e come la pensa? Allora, io faccio parte di questa RSU della CISL e in poche parole abbiamo cercato di collaborare con l'azienda, veramente da tutto, cioè cercando poi di coinvolgere tutta quanta la base per poter migliorare e aumentare quella che è la produttività all'interno dell'azienda stessa. Logicamente avrei sempre le persone che si contrapporranno a te e tutto, però la maggior parte delle richieste che mi vengono fatte proprio per aumento di ore lavorative e quant'altro e le lamentele che magari subisci durante tutto l'arco è quello che tu purtroppo hai un socio che si chiama Stato con te al 68%. Cosa ti comporta questo? Ti comporta avere quel famoso netto in busta paga che tu ne hai di meno, perché dici: io cosa faccio? Lavoro tutti i giorni, lavoro oggi, produco e mi ritrovo poi un famoso lordo, e io cerco di esprimere nel miglior modo possibile il concetto, va bene? Sì. A fine mese, perché poi la rabbia è di tutto, anche il discorso di Marchione. Da cosa nasce il problema grosso? Qual è? Dottor Giannino, qual è il problema grosso? Io lo dico subito. Lei si era visto nel contratto, ci sono 120 ore di straordinari, sì, è vero, tu avrai una maggiore entrata a livello lordo e tutto quello che c'è dietro a livello di buste paga e quant'altro, ma il problema grosso sarà proprio quel famoso sollievo che serve alle persone per passare la famosa nottata, come la definisco io. In che senso? C'è bisogno, in poche parole, che se io lavoro all'interno dell'azienda e ho voglia di lavorare, non devo essere messo in una ragnatela dove più faccio e meno guadagno. Non so se riesco a rendere l'idea. È per quello che non si riescono a liberare energie all'interno di un qualsiasi, in poche parole, struttura produttiva. Perché tu hai una problematica grossa che le voglio far capire. I sabati lavorativi sono stratassati all'interno del nostro sistema produttivo e la maggior parte delle persone i sabati non li fa perché dice: io vado a lavorare, però devo guadagnarci 30 euro per dire, preferisco starmene con la mia famiglia. Vede? E questo è uno dei problemi grossi. Dice: Sacconi ha voluto fare un discorso di sollievo, il sollievo qual era? La detassazione degli straordinari, sì, però per quanto? Per 6.000 euro lorde l'anno, però in quelle 6.000 euro tu ti sei fatto 8 sabati e quelle 6.000 euro e un po' di turni di notte te sei già bruciati. Allora io dico, per liberalizzare il mercato, Marchione ha fatto una cosa bellissima, secondo me, modo di vedere le cose, ha cercato di alzare quel famoso quorum da 35.000 a 40.000 euro. Io non so se lei li ha letti, sì. tutti i piccoli sì, format, sì, che lui ha fatto, proprio per quale motivo? Perché si è reso conto lui stesso che un operaio che lavora a tre turni a livello di metalmeccanica e quant'altro è normale che parta con quella rabbia di prendere 1.300-1.400 euro. Cominciamo a mettergli 1.700 euro in busta paga a quegli operai. E le posso garantire, guardi, dottor Giannino, 1.700-1.800 euro, una persona prende il ruolo di capofamiglia con la C maiuscola. E però tu quando entri sul posto di lavoro sai che a fine mese sono quelli là i soldi che ti entrano, e tu non entri con la rabbia all'interno di quel posto di lavoro, ma entri già con uno spirito completamente diverso, come te, tutti quelli che fanno parte di quel tessuto produttivo. Questo è quello che ancora non si è riuscito a capire. Noi purtroppo siamo dei produttori di PIL, come definisco io, prodotto interno lordo, ma siamo la ricchezza all'interno di un'azienda. Ma per come far funzionare questa ricchezza all'interno dell'azienda, dando di più il netto in busta paga? Perché in fin dei conti una persona va a lavorare, cioè uno piega la schiena ben volentieri, crea un sistema coercitivo all'interno dell'azienda dandogli più soldi in busta paga. Ma se tu metti nella condizione la persona il sabato di farlo lavorare, gli imprimi l'ora straordinaria, gli metti l'ora, cioè è normale che poi nascono le diatribe, che la gente comincia a arrabbiarsi, perché dice: vabbè, io ho lavorato tantissimo per prendere cosa? 1.350 euro mese a tre turni, quando magari venerdì potevo dedicarli a fare qualsiasi altra cosa. Non so se riesco. Roberto, ma qual è la tua risposta, nella tua concreta esperienza, a chi pensa invece in questo momento, ho in mente i colleghi della Fiom, che dice non sono 300-400 euro netti in più al mese, se anche ci chiederanno fino a 120 ore di straordinario eccetera in più, a poter giustificare il fatto che io non posso scioperare in quelle ore in più? Non è una specie di esazione impropria, perché mi levano un diritto in cambio di più soldi, mi comprano come se fossi uno schiavo? Ascolti dottor Giannino, qui non è il problema dello sciopero o mi compra, qui non si tratta di, guardi che tra noi e gli imprenditori siamo nella stessa barca. Se la gente non capisce che oggi siamo entrati in quel maledetto mercato che si chiama globalizzazione, noi qui faremo la striscia dell'Italia, sarà la nuova striscia di Gaza, come la definisco io. Non so se riesco a renderle l'idea. Però è esattamente l'argomento che i suoi colleghi da Fiom li fa imbizzarrire, perché dice no, perché l'imprenditore è l'imprenditore, lui non ci ammette alla compartecipazione dei suoi utili, e anzi investe quando gli fa comodo. Allora, dottor Giannino, io dopo 22 anni di lavoro, va bene, tra le cantieristiche, il giro d'Italia, sud e nord, no? Ci sono due brutte componenti fra il nord e il sud: il tasso di assenteismo. E questo è un punto dolente. Guardate che un'azienda grande come la Fiat non può permettersi, io ve lo dico perché se io fossi imprenditore mi comporterei nella stessa identica maniera sua. Non è possibile che tu il mercoledì hai dei tassi, di picchi i tassi di assenteismo perché devi guardarti la partita. Come non posso neanche accettare io personalmente che da un certo periodo, a un certo periodo dell'anno, ci siano picchi dal 25-30% di tassi di assenteismo, o magari le malattie collegate alle feste. Aziende come la Fiat non possono permettersi una riduzione di personale, ma non solamente la Fiat, ma tante altre piccole realtà non possono permettersi che la gente si assenti, perché poi ne andrebbe della produttività. E io che sono un imprenditore non posso perdere terreno in questa globalizzazione, specialmente adesso che abbiamo i prezzi tirati. Per quello la mia proposta, anche in questa trasmissione, è di dire a questo Stato, oggi, le cose come sono messe, di abbassare le tasse, di incominciare a venirci incontro su tutta una serie di robe, di quelli come noi, che sono produttori di PIL, sono produttori di ricchezza reale per questo Paese. Io l'ho scritto anche nelle email: abbassando le tasse tu poi Stato diventi anche un qualcosa di abbastanza forte per poter attrarre altri capitali, per poter passare questo maledetto guado, che questa crisi economica. Guardi che forse qualcuno ancora oggi non si è reso conto in che razza di situazione noi siamo. Io vivo in quel nord-est dove ho visto aziende essere completamente decapitate, aziende che hanno dovuto delocalizzare, aziende che non stanno su... Ci sono stati anche dei imprenditori ladri, quelli che si sono mangiati i soldi delle sovvenzioni per l'innovazione tecnologica, per tutta una serie di robe, compagnia bella. Ma tanti imprenditori, tanti piccoli, hanno dovuto chiudere. Quindi forse qua non ci si rende conto. La provincia di Udine, dico solo quest'ultimo dato, provincia di Udine, 15.000 persone sono in cassa integrazione, andate a vedere i dati, forse 8.000 rientreranno realmente sul posto di lavoro, gli altri 7.000 saranno licenziati. Di cosa vogliamo parlare oggi? Vogliamo parlare solamente di diritti, o vogliamo incominciare anche a parlare di doveri? Ecco, allora io credo che questo spirito concreto di Roberto, che dice guardate che siamo nella stessa stessa barca, chiunque sia il detentore, diciamo così, del capitale, poi c'è un capitale immateriale che è il capitale umano, che è il know-how, la base del know-how. Sapete che uno dei punti di difetto del nostro sistema produttivo è quello di avere ancora bassa intensità di capitale, quindi poca ricerca, pochi brevetti. Però detto questo, uno dei punti di forza del nostro sistema delle piccole imprese è esattamente il capitale umano dei suoi dipendenti, anche perché quando si ha così poco capitale da investire lo si concentra nella formazione dei propri collaboratori e dipendenti prima di mandarli via, visto che una parte fondamentale dei propri immobilizzi d'impresa ci si pensa mille volte. E allora da questo punto di vista c'è anche uno spirito, ancor più che nei grandi stabilimenti, nelle grandi aziende, come quello che ci ha spiegato Roberto, che oggi, che ora resta con noi. Guardiamo questo stesso spirito da un altro punto di vista, il punto di vista di Matteo Morandi. Matteo Morandi, che dopo una, mi ha mandato una mail, mi ha molto colpito, dopo una vita di signor dirigente, insomma stiamo parlando di direttore marketing, direttore per l'Italia di grandi gruppi, Swatch, Omega, Tissot e così via, Morellato eccetera eccetera, sia pur molto giovane, perché l'età è rivoltantemente giovane e dimostra a molti di noi, a me per primo, che quanto tempo abbiamo perso, a un certo punto decide, avendo questa vita impegnativa, ma insomma di manager che non rischia niente del proprio, a un certo punto decide di buttare tutto per aria e di dire no, io voglio creare qualcosa di mio, siccome conosco ormai il mondo, i mercati, nel settore vendite, nuove tecnologie, stili di consumo eccetera, impegno tutto quello che ho e creo un'impresa. Matteo, ma perché? Ma questo è stato, era un mio sogno fin da quando sono uscito dall'università. Logicamente fondamentale l'esperienza, fatto un po' di esperienza in un po' di aziende interessanti. A un certo punto un po' Oscar, lei mi ha stupito dicendo si fa dal basso, ma è così. Allora ho voluto rimettermi in gioco totalmente in maniera molto pesante, nel senso che poi ho deciso di farlo nel momento, credo, devo dire, molto duro, credit crunch fortissimo, quindi banche che fanno fatica a capire quello che uno vuole fare nei prossimi 10 anni. Devo dire, la mia fortuna è stata quella di viaggiare. Ogni tanto io la sento raccontare. Io negli ultimi 10 anni ho passato circa 120 giorni della mia vita tra la Cina e Hong Kong, e lì devo dire ho visto realmente qual è il vero mondo, nel senso, io sono un italiano convinto e l'impresa la farò in Italia, e certo non vado a farla ad Hong Kong dove pagherei il 16,5% di tasse su una SRL che apro in 12 ore, quindi la famosa Matteo Morandi Limited, se mai la dovessi avere ad Hong Kong, mi consentirebbe veramente di avere risorse finanziarie incredibili. Ma io sono molto italiano, nel senso che reputo che l'Italia ha un potenziale mostruoso, e credo che Sergio Marchionne, per entrare un po' nel merito, abbia veramente cercato di dare una spallata, ma una spallata per far capire che molta gente sta dicendo che il mondo cambia, ma nessuno poi sta cambiando, questa è la verità. Cioè bisogna in realtà fare un po' di cosine, cioè come fa anche ogni tanto Radio 24, l'utente, il consumatore, il cliente, deve essere veramente al centro. Quando si fa nuova impresa, io ho il pallino di fare nuove tecnologie, nuovi prodotti, nuove idee commerciali di vendere, ad esempio reputo che ad esempio la televendita, che è un qualche cosa di fantastico negli Stati Uniti, è un qualche cosa che in Italia viene ancora considerato sminuente per i marchi, in realtà è un canale che apre un contatto diretto col consumatore che è fantastico. Le aziende, siamo ancora ai concessionari di automobili alla vecchia maniera, dove c'è un venditore che poi si scopre che ogni mese fa almeno 30%, ma come mai, uno tanto si chiede. Credo la volontà di fare impresa è quella veramente di creare qualcosa di proprio. Poi per quanto riguarda il rapporto con i dipendenti, almeno io lo vedo, io sono una startup pura, quindi sono partito da solo, come diceva lei, io oggi sono venuto a Milano dalla Brianza in 12 minuti, quindi ho capito che poca gente sta lavorando in questo momento, di solito ci impiego 1 ora e mezza. Esatto, quindi sono arrivato qua e ho detto, cavoli, ma chi è? Sono l'unico, mi passi il termine, cretino che lavora? No, in realtà chi ha voglia di fare lo fa con grandissimi sacrifici, con tantissimi impegni, come l'ho scritto io, ho ipotecato casa, fideiussioni su tutto, perché la banca ormai non ti dà niente se non metti qualche cosa di tuo proprio. Lei è pure sposato, ma sua moglie l'autorizza senza interdirla a fare tutto questo? Guardi, io ho avuto la fortuna di trovare una moglie che, quando ho fatto questa decisione, come ho detto, che ero praticamente, potevo stare in panciolle e in sedia a sdraio guadagnando, lo dico in maniera molto onesta, tanto il mio modello unico è libero, centinaia di migliaia di euro lordi, quindi all'anno, ho deciso di mettere tutto, e mia moglie mi ha detto: guarda Matteo, questa è la tua idea, la facciamo, punto, perché io sono convinto che fra 10 anni sarò un grande imprenditore, bisogna crederci. E i miei dipendenti non ne ho in questo momento, perché è anche difficile trovare risorse buone. Io devo dire questo perché anche una collaborazione, ad esempio con la Sda Bocconi, dove vedo parecchie persone giovani, in realtà non è solo una questione di stipendio. Io ho lavorato con circa 2000 persone quando facevo il manager, e me ne sono portate, come si dice, addietro come amici una decina su 2010. Non è solo una questione per me di stipendio, è una questione di quanto te coinvolgi i tuoi dipendenti nella tua impresa. Io personalmente, a tutte le persone che mi seguiranno, ho già immediatamente deciso che io cederò in maniera gratuita quote azionarie della mia azienda, perché se io trovo dei dipendenti che credono nel mio progetto, è giusto che, quando, non adesso perché adesso metterebbero solo soldi anche loro, quindi vuol dire metterebbero debiti, ma quando metteranno profitto, tutti i miei dipendenti avranno la possibilità di guadagnare, se noi guadagneremo. Devo dire che è molto dura, perché fare questo cambiamento e lanciare una nuova startup in questo periodo molto critico, ti trovi di fronte anche a degli interlocutori che non sono pronti al cambiamento. Cioè i clienti, i partner con cui vuoi aprire nuovo business, dicono tutti: sì, dobbiamo cambiare, stiamo perdendo il 10%, il 20%, ma in realtà fanno sempre le stesse cose. Quindi credo che anche questo, quanto sta succedendo in Fiat, è un qualche cosa di fondamentale per far capire che comunque bisogna cambiare. Io le porto un esempio incredibile che succede a Hong Kong e in Cina. A parte che io vado là ogni 2 mesi, trovo 10 nuovi grattacieli, 2 autostrade in più, altro che il ponte dello stretto di Messina, nel senso che trovo un ponte di 20 km che collegherà Macao ad Hong Kong. Insomma, tante cose. Vado, parlo con un po' di persone che conosco, insomma, dell'establishment di Hong Kong, e mi raccontano che a Canton Road, a Kowloon Bay, c'è un negozio che fattura 200 milioni di euro. Cioè, un negozio, cioè una media azienda italiana. E uno si chiede come mai. Ma perché lì veramente c'è una partecipazione sia dei dipendenti che degli imprenditori, perché non è più ormai, ci mancherebbe, la vecchia Cina o la vecchia Hong Kong. Sicuramente nel centro della Cina c'è ancora un problema di diritti del lavoratore, ma in realtà la Cina ormai sta andando a una velocità che nessuno si accorda, e i nostri, ogni tanto io mi chiedo, ma i nostri politici un viaggettino lo faranno con me, nel senso che realmente sono andati nelle fabbriche a vedere cosa succede? No, non penso. No. E questo è fondamentale. In Italia invece io credo si possa fare ancora tanto, e devo dire, porto un esempio perché guardi, l'ho vissuto, guardi, glielo dico in maniera molto, io il 24 dicembre mi sono venute le lacrime agli occhi, perché ho ricevuto una mail da un grande cliente italiano che si chiama S. Lunga. E insomma, e questa mail è valsa la fatica mia di far partire un anno di impresa, nel senso che questa mail era un po' una mail che diceva: vede Morandi, io ne vedo 1000 di persone, chi hanno le buone idee alla fine vanno premiate, quindi io ho scelto lei, una, la più piccola di tutta Italia, e molto probabilmente la farò entrare in S. Lunga. Questa è stata scritta da un dirigente di S. Lunga. E però questa è la filosofia di S. Lunga. Sì, sì, beh, è la filosofia di Caprotti, io lo devo dire, non lo conosco di persona, no, ma io lo conosco, ecco, io lo conosco, questa, e devo dire, lo apprezzo per la sua combattività. Lei sa perfettamente che c'è una parte d'Italia molto elevata a cui Caprotti invece è un po' il simbolo dell'autocrazia imprenditoriale. E invece io credo che, ne sono convinto, quello che mi sta succedendo con S. Lunga sarà il mio primo grande cliente della mia nuova impresa, è quello che mi consentirà di far capire che se uno ci crede, imprenditori e dipendenti, perché questa è la filosofia che va portata in azienda, cioè dipendenti, si può fare ancora, con fatica mostruosa, giocandosi le mutande, scusate il termine, ma si può riuscire a patto di trovare degli interlocutori che siano in grado di capire che il mondo è cambiato. Se uno vuole fare quello che faceva 10 anni fa o 20 anni fa nella Milano da bere degli anni 80, no, beh, chiaro. Siamo morti. Dottor Giannini. Allora, un po' di pubblicità. Quello che deve essere chiaro è che dal basso, come vedete, ci sono tanti che ci provano. Poi questo non significa che bisogna rassegnarsi all'idea che non si fa. Oggi c'è Antonio D'Amato, presidente di Confindustria, che dice bisogna chiedere e ottenere una triade subito, e io la penso come lui. Non è che per questo bisogna dimenticare che chiunque la ragiona così e tenta di far volare il calabrone con forza dell'impresa e dipendenti insieme con questo spirito nuovo, però se non gli diamo una bella riforma fiscale subito, se non gli diamo una riforma degli assetti contrattuali e della cooperazione nelle relazioni industriali subito, una riforma del welfare che copra davvero quei pochi che sono scoperti, i tanti che sono scoperti nel nostro mercato del lavoro, invece che ipertutelare i 9 milioni di ipertutelati, senza queste tre cose noi potremmo provare a farcela, ma avremo sempre tanto piombo in più nelle ali. Pubblicità. Eccoci tornati in studio e veniamo al terzo ospite ascoltatore dal basso, che proprio, anche lui partendo da una puntata dedicata al modello Fiat, all'elevato assenteismo che c'era a Pomigliano e a Mirafiori, stiamo parlando di assenteismo in cui in due stabilimenti tra il 200 e il 300% superiore alla media degli stabilimenti delle aziende iscritte a Federmeccanica nel nostro paese, ed è un assenteismo che descrive, io lo dico sempre perché io non sono mai stato di quelli che leccano la Fiat, che descrive un problema anche e innanzitutto della Fiat, perché descrive evidentemente in quei due stabilimenti un'incapacità di lungo periodo di saper tenere buoni rapporti con le maestranze, con il sindacato. Questo è chiaro, perché quando uno arriva a 11-12% di assenteismo come media, vuol dire che c'è una questione di questo tipo. E come abbiamo scoperto nel tempo, poi non c'era solo a Pomigliano per via della specificità napoletana, campana, eccetera eccetera, c'è anche a Mirafiori, seppur non del 12, ma stiamo parlando dell'8-9-10%, quindi comunque assenteismi che dimostrano un grande problema. Questo poi forse aiuta a capire anche perché molte aziende di Federmeccanica, diciamo, si gratticchiano un po' la testa di fronte a Marchion. Secondo me sbagliano, però il fatto è questo, si gratticchiano un po' la testa perché dicono: ma come, dopo 100 anni che quelli pigliano contributi, incentivi eccetera, che noi non abbiamo preso, dopo tanti anni in cui frenano perché senza la FIOM la Fiat diceva che non si poteva fare niente, adesso è la Fiat che dà la spallata. E sì, perché la storia cambia, bisogna saper vedere quando cambia, bisogna saper cavalcare esattamente quando cambia, e se finalmente dopo 100 anni il primo gruppo manifatturiero italiano per difendere la manifattura dell'auto italiana, che coincide con quei 5 stabilimenti, visto che la politica non ha saputo aprire a concorrenti, decide di dare la spallata, bisogna darla insieme a lei, ma non la spallata per distruggere, la spallata è non contro i dipendenti, è contro, ripeto, le troppe tasse che rendono molto difficile fare quello che i grandi concorrenti tedeschi possono permettersi di fare. Critica della FIOM: eh sì, ma loro investono di più. Ma certo, hanno più margini e investono di più, hanno una maggiore intensità di capitale per unità di prodotto nei segmenti dove si fa più utile, quelle più elevati, proprio perché hanno un paese dietro che in 15 anni, negli ultimi 15 anni, ha avuto la spesa pubblica che è diminuita di 10 punti di PIL, 10 punti. La spesa pubblica tedesca 14 anni fa valeva il 58% del PIL, vi rendete conto? È scesa di 10 punti, 4 punti e mezzo netti, 5 punti negli ultimi 10 anni di pressione fiscale in meno. Ecco, questo è quello che ha fatto la Germania. Dico la Germania, un grande paese che ha dato vita allo Stato etico in filosofia, che ha realizzato terribili esperienze di Stato totalitario. Non sto parlando di un paese liberista anglosassone dove vige il darwinismo sociale. Ecco, se ce l'ha fatta la Germania, forse possiamo provare a farcelo anche noi. E allora, una di queste puntate ha visto uno dei nostri ascoltatori, Claudio Donini, scriverci dicendo: ho fatto un salto sulla sedia perché io sono in realtà direttore industriale di una nota azienda metalmeccanica del nord-est, ho esperienza per più di un decennio per multinazionali americane che sono subentrate anche per acquisizioni in stabilimenti del gruppo Fiat, e i problemi sono esattamente quelli di cui stavate parlando. Noi siamo bassissimi di produttività nelle graduatorie internazionali, c'è un problema di governabilità in molti degli stabilimenti Fiat, e qua o si dà tutti una mano oppure non se ne esce. Eccoli qua, è con noi Claudio Donini. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, ora che è passato un po' di tempo rispetto a quando ci siamo incrociati con le nostre mail, la realtà che annusa intorno a sé nella sua realtà di lavoro, nel contesto in cui operate, eccetera, eccetera, la fa essere un pochino più ottimista oppure no? Ma dunque, è chiaro che io oggi lavoro in una, diciamo, grande, medio grande azienda del nord-est. Devo dire che i rapporti sindacali e quello che annuso, insomma, è sicuramente molto più positivo. Però sono state dette delle cose prima di me molto interessanti, no? Io vorrei proprio riprendere alcuni punti che sento molto importanti, ed è quel concetto di dovere del lavoro che ho sentito poc'anzi. Quello di Roberto Serra, che fa il rappresentante RSUC. Esattamente, perché in questi giorni, in questi mesi di grandi dibattiti, no, sul tema Fiat, sul tema del lavoro, eccetera, si è parlato moltissimo di diritti del lavoro. Pochissimi, forse nessuno, è la prima volta che sento parlare di dovere del lavoro. Guardi, io ho visto proprio, forse più nelle esperienze precedenti con gli americani, eccetera, ma ormai credo che sia chiaro a tutti che il lavoro è veramente una risorsa limitata e che non viene distribuita assolutamente per volontà divina, no? Ma fluisce dove trova le migliori opportunità. Queste sono le regole del palcoscenico internazionale con le quali dobbiamo convivere e dove nell'azienda attuale io devo convivere tutti i giorni. Noi abbiamo parecchia produzione ancora in Italia, una buona parte, direi un po' meno del 50%, ma insomma è fatta all'estero, e troviamo evidentemente esattamente gli stessi gaps fra il nostro sistema, che è un sistema paese, insomma, gli stessi gaps che ha individuato Marchione, per cui una produttività che ovviamente è la più bassa del mondo. Si diceva poc'anzi il discorso dell'assenteismo, che era veramente un disastro se comparato con aziende americane. Quindi io non voglio fare paragoni con la Cina, con l'India, eccetera, ma è chiaro che anche nell'azienda in cui sono, nel mitico nord-est, è chiaro che l'assenteismo raggiunge dei valori che, ricordo nella mia precedente esperienza, sono il doppio di quelle che era i numeri, diciamo, di aziende analoghe negli Stati Uniti. In ogni caso, questo è un aspetto delicato, lo lasci dire a me con tutta la tagliente brutalità di cui sono capace, visto che poi molta parte del pubblico sta pensando che sto facendo per l'ennesima volta una puntata, sto servendo il padrone, dicono che il sindacalista ce lo sono inventato, dicono che voi siete dei burattini che recitate. Allora, per essere chiari, una componente della produttività è quella data dalla quantità di lavoro, non solo dalle tecnologie che sono impiegate, che aumentano ovviamente la produttività dei diversi fattori, non solo dal capitale umano, cioè da quanto è preparato il dipendente, il quadro, il dirigente, e compreso il manager. Allora, la quantità di lavoro, per avercela chiara, nel settore manifatturiero oggi in Cina la media è 2500-2600 ore l'anno prestate, negli Stati Uniti stiamo parlando di 1950-2000 ore l'anno prestate, Italia 1650 ore l'anno prestato. Siccome è brutale questa cosa del dire lavorare tutti di più, però mi dispiace doverla ricordare a tutti, lavorare tutti di più è una delle, non la, ma è una delle componenti della produttività. Anche perché dobbiamo concorrere, dobbiamo metterci concorrenza con realtà del genere, cioè queste sono le regole internazionali che ci piacciono, no? Insomma. Poi il secondo punto che aveva evidenziato, che è stato evidenziato, è la bassa capacità di attrarre investimenti. Forse siamo i peggiori del mondo, ed è chiaro che facendo un confronto punto per punto, così come io ho spesso fatto negli ultimi decenni con colleghi americani, è chiaro che confrontando la produttività, la remunerabilità dell'investimento, il numero di ore lavorate, eccetera, è chiaro che siamo perdenti, per cui in oltre 10 anni di lavoro non sono mai, dico mai, riuscito a portare in Italia un investimento, se non per casi fortuiti. Ecco. E poi il discorso della governabilità bassa, nell'azienda in cui sono non è così importante, nel senso che c'è una discreta flessibilità del lavoro, benché anche qua gli aumenti a pioggia e la meritocrazia molto appiattita siano senz'altro un problema un problema che va risolto, insomma. Voi quale componente avete nel vostro gruppo attuale di remunerazione variabile? Cioè, come risponde al problema fondamentale, quello posto a Roberto Serra all'inizio? Cioè, intanto tentiamo di dare più busta paga, più reddito disponibile ai lavoratori dipendenti per scuoterli e dire cambiate anche un po' testa rispetto a capire che siamo nella stessa barca con l'impresa. Ecco, ma noi qui stiamo più o meno partendo così come sta facendo Fiat. Abbiamo un premio di produzione, diciamo così, no? Stiamo riscrivendo proprio i parametri che devono essere quelli legati proprio alla produttività, all'assenteismo e alla qualità del lavoro fornito. Questi sono i tre parametri che noi abbiamo in mente per proprio metterli nero su bianco, dare degli indicatori ai quali legare il salario. Però io volevo fare un commento sul discorso del costo e dei salari, sì. Perché a mio parere, giusto un paio di giorni fa, parlando di questi temi, stavo guardando il tabulato del costo degli operai, no? Sto parlando di operai, quindi di livelli, diciamo così, piuttosto bassi. Ebbene, guardi, ho fatto fatica a trovare costi sotto i 40.000 euro. E attenzione, sto escludendo mensa, vestiario, eccetera, no? Allora, queste persone se ne metteranno in tasca netti, diciamo 15.000 in un anno. Allora, io non capisco perché non si porti avanti il discorso della detassazione, della forbice fra lordo e netto, che è il vero, il grosso, l'assoluto handicap. Come sempre, vede, lei mi sta dando ragione. Il problema si chiama Stato, però. Lo Stato, a chiacchiere tutti quanti, compreso il centrodestra, che da 16 anni ci piglia i voti su questo, dicono di volerlo far dimagrire, poi c'è sempre una buona scusa per cui non si può toccare. Il problema è questo. Chiaro. Abbattere il cuneo fiscale significa diminuire i contributi obbligatori a carico dell'impresa e del lavoratore, e su questo, guardi, la politica ci riuscirà, questa è la mia opinione, solo il giorno in cui verrà trascinata giù dalle scale a calci. Perché io non credo più al fatto che ci sia un politico di destra o di sinistra che ne sia davvero convinto, cioè che capisce che questo è il problema. Perché in definitiva dicono: ma avete mai visto per strada una rivolta dei lavoratori dipendenti contro il cuneo fiscale? Non ci risulta. Perché il sostituto d'imposta è una droga che viene ammannita ogni mese a chi, siccome è abituato a lavorare solo al netto, povero schiavo, non è che ha l'idea del lordo che lo Stato si piglia e che costa all'impresa. Questo è il punto. Ho capito. Però lei non può dirlo, lo dico io, che bisognerà pensare a organizzare un po' di queste cose qua. Però guardi che i lavoratori dipendenti avranno paura, perché l'Agenzia delle Entrate, noi che siamo, io sono un professionista e quindi me la devo vedere da solo, più o meno come Peter Pan con Capitan Uncino sull'asse e lo squalo sotto, va bene. Ma il lavoratore dipendente, una volta che gli dici che se si espone a proteste eccetera c'è pure l'Agenzia delle Entrate che gli morde il fondo schiena, ti guarda e non ridito e dice: vabbè, ma allora mi vuoi proprio far la parte di Gandhi incarcerato in Sudafrica? Ecco, fare Gandhi è facile per chi è pieno di idealità, ma per chi lavora per 1000 euro al mese, 900, 1100 euro al mese, gli chiedi di fare pure Gandhi, ti risponde con un pernacchio, e devo dire che ha abbastanza ragione dal mio punto di vista. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Una padellata di mail che chiedono a Matteo Morandi l'indirizzo per presentarsi a lavorare nella sua impresa, poi gli rigireremo. Ovviamente non posso darvi in diretta qua i suoi indirizzi e il suo numero di telefono, però glieli giriamo. Sentiamo un po' di telefonate che sono arrivate per reagire, spero non troppo criticamente, ma comunque se ci sono critici andranno in onda anche loro. Come sempre, Alessandro da Milano, prego Alessandro, ci dica. Sì, buongiorno dottor Giannini, complimenti. Ma io mi sento un po' a disagio perché io sono un insegnante in vacanza forzata, per 20 giorni, e quindi prendo lo stipendio in pratica senza far niente. Ma quel che è peggio è che se volessi andare a lavorare, lei ha deciso di rovinarmi del tutto. Dicono adesso che mi inventerò pure i finti professori che si lamentano perché non lavoro. No, il professore è realissimo. E se volessi andare nella mia scuola media superiore a fare corsi di recupero, perché noi siamo pagati, cioè le vacanze sono pagate. Ma lei è un provocatore, lo sa che lei è un provocatore. Non potrei farlo perché i bidelli mi cacciano a calci in, ha già capito dove, non posso entrare assolutamente, le aule sono chiuse, è tutto chiuso, il dirigente scolastico credo che sia in vacanza, e questa è la situazione, cioè di una pubblica amministrazione che dà un sacco di soldi a un sacco di gente per non fare niente. Le posso assicurare che la stragrande maggioranza maggioranza dei ragazzi non sono figli di gente che è a Cortina e gente che lavora e che magari qualche corso di recupero lo farebbe molto ben volentieri, ovviamente corso di recupero che gli insegnanti devono fare come parte del loro lavoro, dei loro obblighi normali. Ecco, allora lei ci ricorda che siccome il più del miracolo italiano lo fa questo 24-25% lo ha raggiunto sul PIL che è la manifattura, poi c'è il più del 70% servizi e pubblica amministrazione che hanno una produttività ancora più bassa perché hanno meno concorrenza, lasciamo parte la pubblica amministrazione. Allora il problema è che se noi eleviamo la produttività e la filosofia di impiego operativa, di valutazione, di incentivazione del personale della pubblica amministrazione, noi rimaniamo con il sedere nella palta, l'ho detto con la L cinese apposta, e quindi lei ci ricorda che c'è una parte del problema, però naturalmente lei conosce quali sono i criteri prevalenti nella rappresentanza sindacale nel settore pubblico e quindi le faccio i miei vasti auguri perché ci sarà bisogno di cambiare parecchie teste. Sentiamo Emiliano da Brescia come la pensa. Emiliano? Sì, mi sente? Eccoci. Buongiorno. Emiliano, prego, dica. Niente, io in pratica volevo confermare quello che state dicendo durante tutta la trasmissione, cioè che il problema, uno dei problemi veri sono i sindacati. Il problema sindacale è cristallizza tutta la situazione. Io lavoro sia io che mia moglie lavoriamo in un ambito quasi pubblico, cioè pubblico. E vediamo comunque sia che se non passi dai sindacati non puoi trattare con l'azienda, non puoi andare dall'azienda. I sindacati non rappresentano adesso comunque sia i lavoratori perché sono autoreferenziali, quindi anche se non hanno iscritti ci sono le CGL, CISL, UIL che comunque sia stanno lì a trattare loro con l'azienda indipendentemente dal numero di iscritti che hanno, quindi è una situazione che se non va estirpata, perché è proprio da estirpare, purtroppo non si muoverà mai niente, né a livello politico né a livello sindacale, perché sono proprio cose da estirpare. Il paese rimarrà fermo. Io lavoro nel nord, a Brescia, e vedo comunque sia le fabbriche, sono 10 anni che sto a Brescia, sono di Roma, e le fabbriche che hanno chiuso e che stanno chiudendo negli ultimi 10 anni a Brescia è una cosa spaventosa. Ci sono intere lavorazioni meccaniche a basso valore aggiunto che non hanno retto, insomma. Meglio chi aveva capito che bisognava spostarne una parte fuori per avere soprattutto clienti e distribuzione fuori, non tanto per delocalizzare, erano molto criticati questi anni fa perché dicevano voi levate lavoro all'Italia, il problema è trasferirsi con un piede diretto, che non si fa con l'export, si fa con un piede diretto di presenza laddove ci sono i nuovi mercati, perché sto pensando per esempio al caso delle rubinetterie che io conosco, rubinetterie, quindi sto parlando anche di lavorazioni spesso in cui è sui centesimi o meno sui centesimi per pezzo che si lavora, e la differenza tra chi ha avuto anni fa la capacità di capire cosa sarebbe stata l'esplosione delle costruzioni in alcune parti del mondo e quindi l'intensa domanda per una lavorazione sia pur considerata ad alto valore e ad alto prezzo quella italiana, rispetto però a chi faceva cose praticamente uguali copiando a prezzi e a costi molto più bassi, lì la differenza tra la sopravvivenza o meno stessa spesso è dipesa da chi ha capito che bisognava stare vicini a quel mercato, presenti là, anche se si veniva molto criticante in Italia magari dai figli degli stessi imprenditori che dicevano papà, ma insomma in realtà qua per il momento ce la passiamo ancora bene, perché dobbiamo, che per le nostre risorse finanziarie, la nostra capacità organizzativa è un enorme sforzo, andare a mettere un piede direttamente in Cina? Eppure la differenza è stata proprio quella spesso, perché negli ultimi 2 anni chi non lo aveva fatto si è trovato tagliato fuori, perché a quel punto rispetto a chi c'è già, come è ovvio, la concorrenza è spietata. Quello è un mercato in cui oltretutto solo avendo soci di là che siano in grado con joint venture di aprirti le porte a come si fanno le gare, i clienti eccetera eccetera, non è che improvvisamente arrivi quando hai capito. Quando hai capito può essere troppo tardi se non l'hai fatto per tempo prima. Sentiamo come la pensa Daniel, che ci chiama da Cuneo. Daniel, prego. Sì, buongiorno dottor Giannino. Noi con i miei fratelli abbiamo un'azienda che rappresenta un po' un'anomalia italiana, tipica quella delle piccole aziende che nonostante una piccola struttura si sono delocalizzati in diversi paesi esteri. Noi abbiamo uno stabilimento negli Stati Uniti, uno in Grecia, uno in India, ne stiamo adesso. Che cosa fate? Noi facciamo l'asta di materie plastiche che si usano nell'edilizia. Nonostante la crisi quest'anno abbiamo fatto un più 30% di fatturato, 15% di volume perché sono cambiati poi i prezzi. In Italia esportiamo 70%, Appunto, perché in realtà fate questa cosa a doppia cifra, perché in realtà noi sappiamo che il sistema delle costruzioni in Italia è in crisi da anni e anni, sì, e quindi sì, grazie all'export. Crisi, però fortunatamente c'è stato un settore che è quello del fotovoltaico, che ha spinto molto il rinnovo delle coperture. Noi siamo abbastanza inseriti in quel settore lì e quindi ci ha dato una grossa mano. Poi noi esportiamo il 70%. Bene, era per capire cosa facevate. E nella vostra esperienza, quindi? Ecco, la nostra esperienza ci porta a trarre delle considerazioni abbastanza, se vogliamo, ovvie, che sono uscite dai discorsi che avete fatto un po' tutti, che nonostante tutto continuiamo a lavorare in Italia, ma proprio nonostante tutto. Il nonostante tutto è perché siamo radicati in Italia, io vivo in Italia, ho piacere che la mia azienda vada in Italia. Dovessi fare dei conti puramente economici, l'Italia non... si dovrebbe lavorare, e stupirsi di quello che ha detto Marchione, che la Fiat senza Italia sarebbe meglio, vuol dire avere i paraocchi, è una cosa talmente ovvia che capisce qualsiasi. Però Marchione sa benissimo che il secondo mercato che hanno di automobili, quello della Fiat in Italia, non se lo possono dimenticare, e quindi saranno obbligati a produrre ancora in Italia per non perdersi il mercato. Daniel, il problema è che spesso molti di quelli che si arrabbiano quando Marchionne dice senza Italia andrei meglio, dicono: però tu, a differenza della stragrande maggioranza delle imprese italiane, ti sei ciucciato quelli che erano prima di te per 100 anni in Fiat, gli aiuti, gli incentivi, i prepensionamenti, gli scivoli, insomma, cioè decenni e decenni di commissioni garantite. E allora tanti sono anche piccoli imprenditori che dicono: ma guarda un po' questo che adesso ci dice che senza quelli che i cui soldi pubblici lo hanno nutrito il suo gruppo per tanti anni stava meglio. Ma come stava meglio? Non ci sarebbe neanche la Fiat senza papà Stato e i contribuenti italiani. Questa è una delle spiegazioni. Scusi, questo lo sanno tutti, perché la Fiat usa la cassa integrazione anche per quelle questioni che non dovrebbe utilizzare. Esatto. La Fiat, quando fa un cambio di modello, mette la gente in cassa integrazione, non gli mette in vacanza. Ecco, questo bisogna dirlo, anche se la radio di Confindustria, sto con Marchione. La Fiat ha il problema di soddisfare i picchi produttivi. La macchina, quando è il nuovo modello, deve pompare al massimo che porta profitto. Grazie Daniel, perché ci consente di fare una dimostrazione, secondo me, di buona informazione. Cioè, se lo sognano le altre imprese manifatturiere e meccaniche di fare quello che la Fiat ha fatto per anni, perché voi capite che utilizzare gli ammortizzatori per le esigenze di successione dei modelli del proprio ciclo produttivo, non è quello che farebbe comodo a tutti, ma in realtà gli altri non possono farlo, per così dire. Roberto Serra, torniamo un secondo da Roberto. In questi mesi in cui dopo Pomigliano si arriva a Mirafiori, ci sarà il voto su Mirafiori, l'aria che sente intorno a sé nella propria azienda eccetera eccetera è un'aria in cui ha visto montare la polemica appassionata di chi dice questo Marchionne bisogna che lo fermiamo, oppure ragionando intorno a sé ha visto maturare una consapevolezza diversa da qualche mese fa? Insomma, questa vicenda Fiat. Dottor Giannino, sai dove ho visto io il barlume? Quando si è sentito parlare di alzare, guardi, mi creda, non è che stamattina voglio fare una trasmissione fatta sui soldi, ma no, problema, ma è fondamentale. Il problema grosso della gente è quello che ognuno, e da un anno a questa parte, da quando io sono diventato RSU, ho fatto concentrare alla gente, perché molta gente si arrabbiava contro l'azienda, no? Perché l'azienda è il tiranno, l'imprenditore tiranno e quant'altro, che prendevano pochi soldi in busta paga, come se fosse. Beh, guardi, il problema grosso, no? Che dalla parte della grande, la stragrande maggioranza degli operai, è quella che non sa leggere una busta paga. Nel momento in cui gli ho insegnato a leggere una busta paga, a portargli le documentazioni, perché come hanno fatto altre persone, anch'io sono andato a vedermi quanto io costo all'azienda all'anno. Bravo. E non costo 40.000 euro, ma ne costo anche 70 e 80.000 per quello che noi arriviamo a prendere, hanno incominciato a capire che c'era qualcosa che non andava. E la loro rabbia, no, si è incominciata a sviluppare nei confronti di quel sistema Stato che, ripeto, e l'ho detto all'inizio trasmissione, è socio con noi al 68%. E allora tu non puoi aggredire è il socio ladro, sì, è il socio ladro. Lo lasci dire a me, sennò per lei sono problemi. Non mi interessa, io campo col mio, sono lavoratore dipendente senza problemi di alcuna sorta, lavoro a tre turni per giunta per poter prendere qualcosa in più in busta paga, ma mi rendo conto che questo Stato continua ancora a decurtarmi. Io più cerco di dare e questo più cerca di tirarmi, più cerco di dare, e così l'hanno capito anche tutti gli altri colleghi di lavoro, hanno incominciato a capire che questo sistema Stato non funziona più, hanno incominciato a cambiare direzione, ma grazie a questo tipo di operazione. E se non gli avessi fatto capire questa roba qua si stava come 30 anni fa, il paron con la persona che lavora sotto. E allora, arrivato a questo punto qui, dottor Oscar Giannino, Io vorrei fare un appello ai nostri politici, realmente, di fare un'azione nei confronti di chi sta lavorando oggi all'interno delle aziende per potergli dare quel famoso sollievo che tanto il ministro Sacconi ci ha bombardato, di dargli più soldi in busta paga. Beh, e le faccio vedere che da adesso in poi, in tranquillità, tante persone quel problema lì non ce l'avranno più, si entrerà sul posto di lavoro con più tranquillità, si penserà due volte prima di andare in malattia, si penserà prima di incazzarsi, e tu creerai un ambiente all'interno del posto di lavoro fatto ad hoc. È capace anche di levare naturalmente argomenti e consensi concreti a chi invece ripropone l'antagonismo. Io ringrazio Roberto Serra, ringrazio Matteo Morandi per averci dato la dimostrazione di come invece che continuare a fare i dirigenti ben pagati si decida a un certo punto nella vita di buttare tutto a perdere e dice no, creo un'impresa mia, la creo scegliendomi dipendenti e clienti da far compartecipare in questa nuova cultura, e coi primi premi e segni che lo fanno sperare che questo atto di suicida coraggio possa essere premiati. Grazie Claudio Nini che con la sua esperienza di direttore industriale di grandi gruppi anche dell'automotive ci dice guarda che il problema è serio. Questo spirito nuovo che abbiamo visto oggi è quello dal basso, di un paese che dal basso crea le condizioni per prendere poi a calci e cambiare chi sta in alto, ma senza sperare che possa avvenire il contrario. Il caso Fiat Marchionne ci aiuta a capire che a ciascuno di noi sta a costruire un paese migliore per chi viene dopo, ma soprattutto per noi. Oggi, subito, domani, a domani, Rina Gione Radio. 9 in punto.